parte del sistema. Giorno dopo giorno distruggono le vite, commerciano l'amore, guerra e denaro, società e padrone, opprimono l'uomo con la religione. Giochi di partito, giochi di padrone, giochi di partito, giochi d'oppressione. Polizia fascista, serva dello Stato. Polizia fascista, serva del padrone. Opprime i proletari con la violenza. Opprime i proletari con la carcerazione. Basta, non ne posso più, sono disposto a parlare, sono disposto ad ascoltare, ma non voglio essere sfruttato, ma non voglio più pagare. Stato e la sua violenza, ora e sempre resistenza. Contro Stato e la sua violenza, ora e sempre resistenza. Contro Stato e la sua violenza, ora e sempre resistenza. Sistema, fotti il sistema, fotti.